For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream. Bentornati, questa è Radio Prisma 9 e io sono Prisma, o Yuki, o Museum, chiamatemi un po' come vi pare. Oppure le prime tre lettere del mio nome seguite dalla parola duale? Ma non fate caso ai miei deliri oggi, sono particolarmente delirante. Ehi, ma pianti? Oddio, ma chi ha parlato? Sono io, la tua coscienza. Nah, ma che dici? Devo aver bevuto troppo ieri sera, decisamente. Sono proprio qui, nello specchio. Cristo santo, ma allora sono proprio grave. Oh mamma, il cervello sta andando in tilt. Fammi uscire. Uscire da lì? Fossi matta, tu non esisti. Dai, avvicinati ancora, un altro po', ecco, ecco, benissimo. Ancora un piccolo sforzo e voilà, è Gesù di te. Non starmi davanti, sei un'illusione. Sarà ma tu sei tale quale uguale espressione. Non vorrei mai contrariarti, non è un dialogo. E infatti con chi parli vedi altri in discussione. Tu chi sei? Sgomenta coincidenza. Ho idea tu sia un faccia a faccia che ti piaccia o no. Quello sei tu. Tu sei me. Sembri me. Lo proprio me. Si davanti trova nella ragione. D'accordo, ragioniamo, ma non perdiamo la cognizione. Per anni distanti ad un passo da noi. Ti osservo avvicinarmi a me, guardarti sorge il doppio che tutto non sia me. Sembri me. Però proprio me. Sulla macchina di fronte a due non posso essere ridotto in questo stato. Mettiamo pure una leggera schizofrenia. Scuderei sui tratti di crisi di identità. Meglio essere da quel posto. Ok, allora, calma il sangue freddo, chiudo gli occhi, li riapro e... Ciao, sono qui. Ah! Oddio, ma sei matta, mi ha fatto prendere un colpo. Scusami, non volevo spaventarti. Scusa, ma questa voce da dove esce fuori? Sei un attimino inquietante, eh? Mica per niente. Se vuoi posso parlare anche così, io ho mille voci, non è un problema. No, no, tranquilla, lascia perdere, era meglio la voce di prima. Ma una voce... normale, no, eh? Normale? Mi spieghi cosa vuol dire normale? Perché, vedi, non ci arrivo. Senti, allora, bella di casa, io qua devo fare una trasmissione. Quindi, o hai qualcosa di intelligente, interessante da dire, oppure è meglio che te ne vai, insomma, no? Lasciami lavorare, eh? Scusa, ma sei tu che mi hai chiamato. Ti sentivi sola e allora ho pensato bene di venire a farti un po' di compagnia, no? D'altronde, insomma, siamo da anni nella stessa testa, quindi, insomma, ecco, tra buoni vicini di casa dovremmo darci una mano, no? Ma chi t'ha chiamato, dico io? Poi senti, guarda, già mi hai fatto un casino, manco mi hai fatto disannunciare i brani, eh? Allora, cari ascoltatori di Radio Pazza, dove eravamo rimasti? Dunque, abbiamo aperto con un pezzo strumentale degli Alan Parsons Project, A Dream Within a Dream, con un riferimento a una poesia di Edgar Allan Poe. Ih, che belle le poesie, mi piacciono tanto, perché non me la leggi? Dai, dai. Ma tu non devi essere la coscienza, che è sta lagna? No, non ti leggo la poesia, non te la leggo, stai zitta. Shh. Allora, subito dopo... Dopo una interferenza causata dai fumi dell'alcol della sera prima, che vi prometto passerà all'istante, abbiamo proseguito con un pezzo di John DeLeo dall'ultimo album Vago Svanendo, il suo album da solista, e il pezzo si intitola Tilt, tra parentesi, c'è Mattia. Posso scegliere un brano io adesso? Ma poi ti stai zitta? Allora... Cari amici di Radio Pazzo, ecco a voi i pari combo con Bibi Chitè. Oh, guarda che non hai ancora risposto alla mia domanda, eh? Com'è che dici sempre? E auguro a tutti un buon ascolto. Quanto ti odio! Oui, j'ai le don. Oh, oui, je suis douée. J'ai acquis le don d'ubiquité. Je me fais dépasse. Oui, je me surpasse. Dans l'art de me servir, j'ai fait mes classes. Oh, je joue en duo avec mon ego. Je suis toujours au four et au moulin, j'engrange les grains. Je joue les faux semblants, on m'attend noir, je réponds blanc. Par mon aplomb, oui, je surprends tous les défenseurs de la bonne foi, car je ne connais qu'une loi, celle qui a fait de moi un roi. Au domaine de la double vie, c'est moi le prince Régis. Oh, faudra être très très nombreux. Je tiens comme cette os à moi, elle tient à son chien. Je fais des doubles, oui, je me dédouble. Je copie ma pomme sous papier carbone. Situations les plus complexes, qu'elles soient concaves ou bien convexes. De tout tracas, je me déduis en lançant un va par là-bas si j'y suis, car je suis sûr de mon cas, qu'étant ici, je serai là-bas. Et puis tant pis si ça vexe, pas si simple d'être complexe. Oh, faudra être très très nombreux. Vi sia piaciuto il brano? Questi sono i pari combo che ho conosciuto da poco e... Oh, non mi posso allontanare un attimo per andare al bagno, che te già subito prendi, ti piazzi, mi freghi il microfono. Oh, Che è sta storia? Levate un po'. Oh, a parte che poi pari con voi. L'hai scoperti te, ho scoperti io. Che sta di? Ma guarda che io sono te, quindi l'ho scoperti anche io. E poi scusa, volevo portare un po' di pepe a questo programma Radio Prisma, sempre così seria, così due palle, senti figlia mia, sei moscia, moscia, moscia. Grazie tante, Mazza, non ti sprecare nei complimenti, continua, fai pure, come se fossi a casa tua. Sei pure permalosa, mamma mia, noiosa e permalosa. Senti, guarda, fai una cosa, vatti a far vedere da uno bravo, ma uno bravo, eh. grandissimi Wax Fang. Tranquilli, non vi preoccupate, l'ho imbavagliata. Così adesso ci gustiamo una bella trasmissione pimpante, piena di pepe, frizzante. Sì, è bella, deve ancora venire chi mi imbavaglia. Poi cara, pure questi mi hai fregato, eh? Pure i Wax Fang. No, dico, non te sono bastati per il combo, adesso pure i Wax Fang mi freghi. Non si fa così, eh? Esagerata, adesso fregare. Ma che te li sei comprati, eh? Ma no, che c'entra? È una questione di merito, di non so, riconoscimento, di chi l'ha trovati per primo, tutto qua. Oddio, ti prego, ma non tirare fuori la questione morale per un brano, mamma mia, pesantezza. Senti, la scaletta facciamo così, oggi la faccio io, eh? Becca dico quel bordello, va, così ti dai un po' una scossa, eh? Uncles from abroad, yes, I never met them. Ooh, I took everything they wrote, and I'll never forget them. Ooh, through the mystical communication, deep within it all comes through, forming underground railroad, far around the Mothrake Road. Communication deep within it. We'll be right back. ci sto io oggi, va. Sennò quella ricominciava con le anime sorelle, l'amore, l'arte, la misticità, l'immantinenza, la filosofia. Che poi, detto fra noi, non ci capisce niente, solo che a lei le piace sentirsi parlare, scrivere queste cose poetiche. Che fai adesso, parli male di me alle spalle? Ma guarda te, sta serpe in seno. Parlare male? Io ho detto solo la verità, eh. Bisogna che qualcuno prima o poi te la dica. Non è che puoi far finta di vivere nell'Olimpo, nell'etere. Scendi un po' sulla terra, fra noi mortali, sempre chiusa lì nel tuo guscetto. Mamma mia, ma che ce l'hai di così prezioso che nessuno lo può vedere? E tiratela un po' di meno, no? Oh, ma guarda che io mica me la tiro, C'ho i miei motivi, che ne so, sono un po' così, un po' schiva, un po' orsa, un po' riservata, mica non me la tiro affatto. Guarda, eccola che tira fuori la storia dell'orso. La verità è che te la fai sotto dalla paura. Vai retta a me. Questo è Marco Bellotti. È perso l'istinto ormai, la mia diplomazia fa quasi pena. È un bene da un lato, ma dall'altro c'è qualcosa che mi frena. Non sono sincero più, schiavo anch'io di questo detestabile sistema, costretto a fingere di essere un leone quando sono solo un cane alla catena. Dicendo la verità si può arrivare alle conclusioni migliori. Solo dicendo la verità si può arrivare alle conclusioni migliori. Solo dicendo la verità si può arrivare alle conclusioni migliori. Solo dicendo la verità si può arrivare alle conclusioni migliori. Vero, lo ammetto che la furbizia porta ad un successo più immediato. E per un po' ci cascano, ma prima o poi la verità vien fuori e sei spacciato. Ma è difficile resistere, perché si sa che chi è sincero parte un po' penalizzato. Ma un giorno lui riderà e tremeranno tutti quelli che l'avevano sottovalutato. Solo dicendo la verità si può arrivare alle conclusioni migliori. Solo dicendo la verità si può arrivare alle conclusioni migliori. Solo dicendo la verità si può arrivare alle conclusioni migliori. Solo dicendo la verità si può arrivare alle conclusioni migliori. Dicendo la verità. Solo dicendo la verità. Solo dicendo la verità. Solo dicendo la verità. Ehi, mi sa che si è offesa. C'ha il muso. E poi se ne sta lì in un angolo a scrivere di nuovo. Mi sa che l'ho fatta grossa. Ehi? Me? Dai, su, non volevo essere cattiva. Dai, vieni qua, dai, ti faccio scegliere un brano, eh? Vuoi? Senti, me al quadrato, qua ti stai allargando, eh? Adesso sei tu che fai scegliere a me un brano. Tu qua sei ospite prima di tutto, quindi vedi di abbassare la cristina, eh? Acidona, volevo solo essere gentile, ma evidentemente non te lo meriti. Vabbè, prima che commetta un meicidio, ecco i Kruderendorfmeister. Questa è Going Under. Evil Love and Insanity Dub. Resistete, ci penso io. Thank you. Ma lo senti quanto sei pesante? Ma ti rendi conto? Mi stavo tagliando le vene. Pesante? Ma questa è profondità, è scandagliare l'abisso dell'animo umano, affrontare l'oscurità, i demoni interiori, insomma, sei tu che sei superficiale. Sì, buona questa. Adesso io sarei superficiale, solo perché mi piace essere allegra e pimpante, mica vuol dire per forza che sono superficiale. Sì, vabbè, dai, però il dolore comunque è necessario affrontarlo, prenderne atto, lasciarsi attraversare da esso per poi poter trovare una luce per risorgere. Uff, ho capito, sì, prenderne atto va bene, ma no, crogiolarcisi dentro. Ci stai facendo le sabbiature con il dolore. Ascoltiamoci L'Uomo Vivo piuttosto, di Vinicio Capossela. Calvario, il sudario, ha lasciato la croce e la pena, si è levato il sonno di dosso e adesso per sempre con noi. Se il Padre Eterno l'aveva abbandonato, ora i paesani se l'hanno accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena in rabbia, Giorgia, le dita tese indicano Giorgia, esplodono le mani per la Giorgia, si butta in braccio a tutti per la Giorgia. Pazzo di gioia, è l'uomo vivo, si butta di lato, non sa dove andare. Che pazzo di gioia, è l'uomo vivo, di spalle in spalle, di botta in botta, le sbandate gli fanno la rotta. Alziamolo di peso, gioventù, facciamolo saltare. Fino a che arrivi in cima, fino al cielo, fino a che veda il mar. Fino a che veda che bellezza la vita mai dovrebbe finire. Barcolla, traballa sul dorso della folla, si butta, si leva, al cielo si solleva, con le tre dita la via per indicare, nemmeno lui, nemmeno lui sa dove andare. Barcolla, traballa, al cielo si solleva, con le tre dita, tre vie per indicare. Perché pazzo di gioia è l'uomo vivo, si butta di lato, non sa dove andare, di corsa spesso va senza ritegno, ma il Cristo di legno non crede ai suoi occhi, non crede alle orecchie, nemmeno il tempo di resuscitare, subito l'hanno portato a mangiare. A raggi sulla schiena irradia Giorgia, si accalcano di sotto per la Giorgia, esplodono le mani per la Giorgia, lo coprono i garofani di Giorgia. Gioia, gioia, gioia, viva per noi, gioia, gioia, gioia, viva per noi, gioia, gioia, gioia, viva per noi. Di là, no, di qua. Com'era tornato cristiano. Barcolla, traballa sul dorso della folla, che veda che bellezza è la vita, mai dovrebbe finir. Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia. Non senti che meraviglia? L'allegria, la gioia, la voglia di vivere, di ballare, di mangiare, di scopare, di fare tutto. E te sei qui ferma a contemplare. Lascia di andare un pochino, no? Anch'io ho diritto di vivere la mia vita. La solita fortunella tra tante capocce, proprio la tua mi doveva capitare, uff. Oh, se ti fa tanto schifo, guarda che te ne puoi andare tranquillamente, qui nessuno sentirà la tua mancanza. Sì, beata a te, magari potessi. E poi... sì, ok, la gioia, la voglia di vivere, il ballo, sì, poi scopare, cioè, perché banalizzare, voglio dire, l'amore, la congiunzione tra anima e corpo, insomma, non ridurla sempre così, no, queste cose trite, ritrite, banali. E poi guarda, che cosa mi dici della cognizione del dolore? Cosa mi dici? Oddio, ti prego, adesso non dirmi che metti in Marlene Kunz. Comincia a fare le valigie, va. Sovranità. Posso levare i tappi dalle orecchie? Ma smetti di fare la disfattista, i tappi nelle orecchie, cioè, questa è musica, poesia. Sì, ma la vita non è poesia, è un'osteria. Vecchio non piagne, che il pane ce l'hai, c'ha la pensione, tu sorti da parte. I figli ormai ce l'hai sistemati, se non li vedi è che ci hanno da fare. E qua beviamo, stavolta offro io, voglio far un brindisi all'anni che c'hai. Tienlo in alto sto bicchiere, alla salute. E non ci pensa, e la vita è un'osteria, si ci pensi, è una bottega, poi si chiude, e così sia. E la vita è come nel vino, più bevi e più te frega, t'ambriachi. È la poesia. Ma che te piagni, possibile mai? Non te dai pace che devi star solo. Poi non è vero, noi siamo già in due. E se può essere tant'ante ride più. Non veder sole che sgraffia i vetri, un ragazzino si mette a cantare, vecchio non piagne, se no non lo vedi, e il giorno dopo sta ben cominciare. E la vita è un'osteria, dice bene. Bottega, poi si chiude e così sia. E la vita è come nel vino, più lo bevi e più te frega, t'ambriachi, è una poesia. E la vita è come nel vino, più lo bevi. Te frega, t'ambriachi, è una poesia. E questa da quale baule polveroso l'hai cacciata fuori? E poi spiegami cosa c'entra questa canzone con noi. Parla di godersi la pensione, dei figli che non hanno più tempo di venirti a trovare. Noi siamo nel fine degli anni, figli nemmeno ce l'abbiamo. Che c'entra? Perché devi fare sempre la maestrina che va a fare l'interpretazione letterale? È lo spirito che conta, no? Un brindisi alla vita, un bel vinello che fa passare la paura, che scioglie la lingua, che fa dire cose che uno non direbbe mai. Per esempio, io e te adesso, se brindiamo e ci sgargarozziamo un po' di vinello, che male facciamo? Come lo vedi, per esempio, questo Gewürztraminer? Cosa ne sai tu di vino? Che ho mai fatto un corso da sommelier io. Lascia fare. Sarà una di quelle vite precedenti di cui tanto ti piace parlare. Oh, se non lo vuoi lo bevo da sola, eh? Vabbè, dai un goccetto, su. Poi tanto dicono che chi beve da solo si strozza, no? Chi mangia da solo si strozza. Ti devo insegnare proprio tutto. Vabbè, lasciamo perdere. Alla salute! Così moscio sto brindisi, chissà che mi aspettavo. Frizzi, lazzi, petardi. Ok, facciamolo in spagnolo, dai. Pronta? Arriva, abajo, a centro y pa dentro. Vabbè, salute, va. Ancora mia da fior a fior, con dolcezza e con amore, vai tu per me. La mia felicità vive sol di realtà vicino a te, voglio vivere. vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Ah, oggi amo ardentemente con ruscello impertinente, menestrello dell'amore. Ah, la fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, se felice canto, canto per me. Ruscello impertinente, menestrello dell'amore. Ah, la fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice incanto, canto per me. Eccoci qua, va. Dopo questo bel brindisi, questo era Alberto Lavagliati con Voglio vivere così. E che me lo dai un altro goccio? Ah? No, ti fa male il vino, poi dopo dovessi mai dire cose di cui potresti pentirti. Io in quanto tua coscienza sono anche il tuo tutore, perciò non ti darò più vino. E dai, un goccetto, ti prego. Dai, ti prometto che ogni tanto ti faccio fare un po' la scema. Te lo concedo solo se mi prometti che canterai e ballerai tutta la prossima canzone, che è anche l'ultima. No, come l'ultima? Di già, adesso che cominciavo a divertirmi. Vabbè, dai, intanto bevi di questo. E poi dai, magari vediamo, dai, tanto qui siamo su Radio Pazza, non penso che se sforiamo un po' ci dicono niente, no? Magari un altro branetto te lo faccio mettere, ok? Grazie, sei proprio un'amica. Anzi, sai che ti dico? Ti voglio bene, vieni qua, fatti abbracciare, dai. Oh, ma che è la prima volta che bevi il vino? Vabbè, adesso però balla, Mi hai promesso. Sette mesi d'alto mare, quando sbarchi cerchi lei e ti pare di tornare da Madama Butterfly. Susan De Marinai non fa problemi mai, un regalino e poi il resto è tutto per noi. A volte dice no, quando ha bevuto un po' dice da ora in poi ragazzi parto con voi. C'è tempesta questa notte, mare mosso, forza sei. Nelle lenzuola sono vele per i sogni che le dai. Susan De Marinai non fa problemi mai, e poi il resto è tutto per noi. A volte dice no, quando ha bevuto un po', dice se tu vuoi me, portami in mare con te. Occhi sicuri, stelle polari, è quel che cerca lui. Sogna di mare e antichi velieri, ma poi non parte mai. Susan De Marinai non fa problemi mai, un regalino e poi il resto è tutto per noi. A volte dice no, quando ha bevuto un po', dice se tu vuoi me Susa de Marino, la trovi in tutti i bar, dice un bicchiere poi. Ragazzi, parto con voi. C'era una volta, sai, Susa de Marino, disse un bicchiere poi. Ragazzi, parto con voi. C'era una volta, sai, Susa de Marina, disse un bicchiere poi. Guarda che la canzone è finita. Me? Che c'è? Alzati, devi disannunciare il brano. Fallo tu. Come io? È la tua canzone preferita di quando eri piccola. Devi dire che stava nella cassetta di tuo papà, che te la metteva sempre, che ci sei affezionata, perché ti ricorda l'infanzia, un periodo felice. Sì, sì, però adesso non c'ho voglia, Fai te. Allora, quella che abbiamo appena ascoltato era Michele con Susan de Marinai e... Oh, Prisma! Come la finiamo la puntata? Dai, alzati su, vieni a salutare gli ascoltatori, non lasciarmi così da sola. Ma io non so cosa mettere. Vabbè, vediamo. Allora, andiamo un po' di sbirciare nei file di questa qua. Ah, ecco, sì. Allora, cari ascoltatori di Radio Pazza, chiudiamo Radio Prisma 9, intitolata Duale Anormale Meno Male, con un pezzo di The Son of Dave, All Times Were Good Times. E questa chi la sposta da qua? Ah, e vi aspetto su radiopazza.blogspot.com. Ciao. Oh, io ti lascio qua, In braccio non ti prendo. There's a place in Seoul where you've got to wear your bow tie. You can wave your diamond, you inside. You can drive your Bentley, but they're not gonna let you inside. And then a man in leisure suit you wear, they ain't never gonna let you in there. Spin you around some more. I like your stagger, your old fashioned, but I'm never gonna get you, am I? Outside and just go walking in the moon.